Si avvicina la festa della Liberazione e quest'anno a Bologna, una delle feste popolari, diciamo la più frequentata della città, verrà ufficialmente aperta il giorno prima del 25 aprile, la sera del 24 aprile, da un concerto che sta sollevando molto entusiasmo in città. Stiamo parlando di Ginevra Di Marco, una delle più belle voci italiane che noi abbiamo al telefono e che saluto. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Innanzitutto, Ginevra, ti chiedo, insomma, se anche tu sei contenta di questo concerto e cosa dobbiamo aspettarci? Molto, molto, siamo molto contenti, molto presi bene, come si dice in gergo giovanilista. Siamo molto contenti di una vigilia del 25 aprile, dove appunto la musica diventerà corpo e voce della libertà, insomma una libertà che in realtà si rinnova ogni volta che qualcuno sceglie di esserci, di metterci il proprio corpo, e quindi è proprio lì che diventa un gesto vivo, insomma un atto necessario. Il 25 aprile è bellissimo trascorrerlo in città, in mezzo alla gente, tra la gente, come abbiamo sempre fatto da tutta la storia dei CSI in poi. È una festa di libertà di tutti gli italiani, e anche se nel tempo poi è diventato anche un po' uno scontro, no? Un ring di scontro ideologico che intristisce, perché invece di essere un momento di riconciliazione nazionale sui valori dell'antifascismo, a volte è percepito come una linea di confine che spacca il paese tra chi si riconosce in quella memoria e chi la nega o la strumentalizza in qualche modo. Indubbio pensare che la libertà comunque non è un pacchetto regalo rassicurante per nessuno, è un terreno di scontro continuo che ci richiede anche di fare i conti con i propri fantasmi. Però è una festa meravigliosa, meravigliosa, viva, che abbiamo moltissima voglia di condividere con la città di Bologna. Dobbiamo aspettarci una scaletta particolare? Ma senti, sarà una scaletta molto energica, molto ritmata. Faremo molte delle canzoni dell'ultimo album, qualcosa che richiamerà ai valori della resistenza, però insomma una bella scaletta energica, ecco, direi così, com'è bene che sia in questa occasione. Tu nella tua carriera hai, come dire, trafficato molto nella musica popolare, secondo te ha ancora molto da dire? Beh, assolutamente, la musica popolare non è assolutamente un fossile da museo, ma sono le nostre radici, sono la nostra storia ed è tutto il passato che ci insegna ancora a leggere il presente. Io lo vedo veramente come un mezzo di comprensione, e quindi è sempre bene, no, conoscere ciò che c'è stato prima di noi, le storie delle persone, le lotte e tutti i valori che la musica popolare porta con sé sono assolutamente attuali e necessari ancora oggi. Tu citavi poco fa il tuo ultimo album, Kaleidoscope, che si è guadagnato anche una targa a Tenco. Sta andando bene? Stai portando in giro? Guarda, abbiamo cominciato la data zero a Milano settimana scorsa, è andata molto bene, è stato proprio il debutto, e quindi lo porteremo in giro nei club in primavera, in estate, compatibilmente poi con tutto il resto delle cose che ci saranno da fare. Sarà un anno molto intenso, molto pieno di cose, di progetti, di incontri, rincontri, e quindi sono molto contenta, anche perché l'età avanza e sento che le cose intorno a me accadono in maniera positiva, bella, e quindi sono contenta. Insomma, laddove si pensa che poi a una certa età si comincia a scollinare verso il basso, ecco, questa sensazione non mi sta arrivando, e questo mi rende felice, insomma. Ecco, sia per l'ultimo album che per i due precedenti tu hai fatto una scelta particolare, che è stata quella di sostenerli attraverso il crowdfunding. Ti chiedo le ragioni di questa scelta. Il crowdfunding è il mezzo migliore, lo strumento migliore che abbiamo al giorno d'oggi per restare indipendenti, lo strumento principe, insomma, della musica indipendente in qualche modo, perché nell'attuare questo coinvolgimento delle persone, del tuo pubblico, della gente che ti segue direttamente dal basso, direttamente all'inizio dell'idea di un progetto, prima che questo progetto prenda forma, è un modo bello per creare qualcosa insieme. Le persone sono anche felici di partecipare attivamente no? In maniera concreta alla realizzazione di un'opera. È un mezzo che ti permette di metterti in relazione con le persone senza molti filtri, ci si scrive, ci si racconta ed è bello, è un mezzo per fare comunità appunto e per restare profondamente liberi senza che ci siano intermediari di mezzo e che nessuno ti dica cosa devi o non devi fare. E diciamo che è la cifra che ci caratterizza da sempre e nella quale ci sentiamo a nostro agio. Allora io, Ginevra, ti ringrazio, grazie a voi. Rinnovo alle ascoltatrici e ascoltatori l'invito a esserci venerdì sera 24 aprile in Piazzetta San Rocco al Pratello per appunto inaugurare ufficialmente Pratello Resiste con Ginevra Di Marco. Dai, vi aspettiamo.